Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Intorno a metà maggio è attesa la pubblicazione in Gazzetta del nuovo regolamento europeo sui gas fluorurati. Ricordiamo tra l'altro che i regolamenti entrano automaticamente in vigore senza bisogno di recepimento. Parliamo dei gas tecnici che vengono utilizzati, per questo ci interessa, da quasi tutti i condizionatori, i frigoriferi, le pompe di calore, oggetti che sono ormai nelle case di tutti. Questi gas dovranno essere progressivamente eliminati, dato che sono dei potentissimi gas a serra. Dal 2015 partirà una specie di countdown e a tendere si arriverà alla riduzione di quasi l'80% nell'uso di questi gas entro il 2030. Di tutto questo si è parlato e delle conseguenze di tutto questo si è parlato in un convegno recentemente organizzato dal Centro Studi Galileo, in rappresentanza del quale abbiamo in linea con noi Marco Boni. Buonasera Boni. Sì, buonasera a tutti. Che è anche vicepresidente dell'Air Conditioning Refrigerant European Association e quindi insomma persona molto adatta a parlarci di quello che accadrà. Allora, insomma, spariscono questi gas fluorurati che sono presenti in questi elettrodomestici, ormai chiamiamoli elettrodomestici, molto molto diffusi. Al loro posto che cosa arriva e che problemi si tira dietro? Certo, l'argomento è molto importante, riguarda non solo ovviamente i tecnici ma anche il singolo consumatore, quindi l'utilizzatore di questi impianti. Infatti questi gas refrigeranti vengono utilizzati nei frigoriferi, nei condizionatori e sono refrigeranti molto dannosi per l'effetto serra, perché questi gas sono migliaia di volte più dannosi della CO2, che è quel gas che tutti noi sentiamo, sempre preso come riferimento. Cioè una molecola di quel gas fa migliaia di volte, diciamo, l'effetto serra che produce una molecola di anidride carbonica in atmosfera. Esattamente, quindi la Commissione europea ha deciso di, come ha detto lei, ridurli gradualmente dal 2015 fino al 2030, quindi a partire dal 1 gennaio del 2015 andremo a vedere utilizzati nei nostri impianti sempre più dei gas refrigeranti alternativi come idrocarburi, l'ammoniaca, l'anidride carbonica. I quali hanno dei problemi rispetto ai vecchi gas fluorurati che erano enormemente impattanti sull'effetto serra, ma magari erano più facili da usare, no? E qua il problema. Esatto, infatti questi gas che andranno a sostituire i gas fluorurati sono gas che potrebbero essere tossici come l'ammoniaca, potrebbero essere leggermente infiammabili come gli idrocarburi, o potrebbero essere gas ad alte pressioni come la CO2, oppure altri gas refrigeranti che ancora non sappiamo la loro esistenza, ma che verranno studiati per rispettare i problemi ambientali e anche aumentare l'efficienza energetica dell'impianto, perché ricordiamoci che è sempre importante anche l'efficienza energetica, che anche lo scopo della regolamentazione stessa è quello di migliorare oltre che rispettare l'ambiente, quindi un miglioramento energetico è praticamente importante anche in questo caso. Il problema, diciamo, riguarda in primis i tecnici, cioè quelle persone che poi dovranno fare per esempio la manutenzione. Tra l'altro, se non sbaglio, viene introdotta con questo regolamento anche la manutenzione obbligatoria per gli impianti di refrigerazione e di condizionamento, così come c'è sulle caldaie, o sbaglio? Esatto, c'è una manutenzione obbligatoria che deve essere periodica, quindi annualmente ogni tecnico del freddo deve andare a verificare che la macchina funzioni correttamente, non abbia perdite dal punto di vista ambientale del gas refrigerante, che funzioni energeticamente in maniera corretta. Ed è molto importante perché recuperiamo gli impianti di condizionamento, quelli delle caldaie. Ecco, il problema è che appunto cambiando questi gas sono un po' più complicati da utilizzare dei vecchi gas fluorurati e c'è anche il rischio che qualcuno qualche errore lo faccia. Insomma, come si fa ad essere certi di avere a che fare con un tecnico preparato, che sia aggiornato, che non usa il propano per caricare un vecchio condizionatore che così salta per aria? Come facciamo ad avere questa certezza? E per fortuna l'Europa ci dà una mano, perché ha messo in tutta Europa, quindi uniformemente in tutta Europa, ciascun cittadino europeo può verificare se l'installatore che gli arriva in casa è competente oppure no, perché deve avere un patentino, ecco. Il famoso patentino del frigorista, quindi deve mostrare un tesserino in cui c'è scritto il suo nome e il suo codice. Oltretutto, ciascun utente può andare anche sul sito internet, il Ministero e le Camere di Commercio, e verificare che il proprio installatore sia inserito in questo sito. Grazie Marco Boni. Grazie a lei. Ecco, vale la pena di sottolineare che per una volta le regole, le restrizioni ambientali sui gas refrigeranti varranno anche per le aziende che stanno fuori dall'Europa e che vogliono importare in Europa questi prodotti. È qualcosa che vorremmo vedere più spesso, ma bisogna riconoscere che in questo caso l'applicazione della regola è piuttosto facile e non sempre è così. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.